Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa nuova puntata dei Fumetti a Sinistra, un mondo dentro ai balloon, una trasmissione che oggi butterà lo sguardo anche oltre le patrie frontiere, perché sicuramente c'è un nesso molto stretto tra le varie pubblicazioni che la sinistra, in particolare i partiti comunisti, stampavano per i ragazzi, e d'obbligo guardare la Francia, perché con la pubblicazione di Vaillant è stato forse uno dei risultati più felici di questi esperimenti editoriali. E tra l'altro Vaillant ha dato moltissimi spunti, nonché proprio storie direttamente ristampate, al Pioniere di Gianni Rodari e Dina Rinaldi. Vaillant di fatto è l'erede di un'altra pubblicazione, Mon Camarade, che dal 33 fino al 39, cioè l'occupazione nazista, si pubblicò tra i ragazzi della Francia, sempre allora in qualche modo legata al Partito Comunista Francese. Poi dopo la guerra arrivò Vaillant, che poi diventerà più avanti Pif Gadget. Per sapere un po' di questa filiera editoriale francese abbiamo intervistato Jean-Luc Muller, che è un regista che sta effettuando un docufilm proprio su Vaillant, un'opera che si presenta del tutto interessante e che credo meriti un ascolto in questa intervista, ringraziando naturalmente Caterina Ciarleglio che ha prodotto l'intervista, Ilaria e Francesco che l'hanno tradotto rispettivamente nelle domande e nelle risposte. Les bourgeois, c'est comme les cochons, mais ça devient vieux, mais ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, mais ça devient vieux, mais ça devient... Buongiorno, la chiamo da Radio Città Fujiko, dove stiamo lavorando sulla storia di Mon Camarade e Vaillant, e siamo arrivati a conoscenza del fatto che lei sta lavorando a un film sullo stesso soggetto. In effetti non si tratta propriamente di un film, ma di un lavoro di memoria audiovisiva su entrambi. All'inizio si trattava solo di un documentario che poi è diventato un lavoro di archivio. È un progetto interessante, da dove viene l'idea? Grazie a Richard Medioni, che aveva scritto un libro sulla storia di Pif Gadget e che ha in seguito fatto una seconda opera per riprendere tutta la storia della stampa illustrata per la gioventù comunista, con Vaillant, Mon Camarade e in seguito Pif Gadget. Richard Medioni è stato uno dei redattori capo di Pif Gadget e nel 2008-2009 ha lanciato l'idea di fare un lavoro sulla storia di questi giornali. Avevo iniziato ad accompagnarlo nelle sue ricerche facendo delle video interviste e ci siamo detti che sarebbe stato molto più interessante fare questo lavoro in maniera più seria. Così abbiamo iniziato nel 2011 a intervistare coloro che avevano lavorato su Pif, o almeno quelli che erano ancora vivi. Dopodiché ho trovato un produttore che era interessato. Gli ho quindi proposto di fare due film, uno su Vaillant e un altro su Pif. In seguito abbiamo lanciato anche un crowdfunding. Fantastico, è grazie al crowdfunding che abbiamo avuto notizie delle vostre ricerche e del progetto del documentario. Voilà, les anciens lecteurs, bon, évidemment, les lecteurs de Vaillant maintenant sont quand même un peu âgés. Esatto, e siamo riusciti a coinvolgere i vecchi lettori di Vaillant, ormai anziani, gente di 50 e 60 anni, interessati al progetto. Anche perché fino ad ora la storia è stata raccontata o troppo poco o male. C'è giusto un libro uscito qualche anno fa, ma mai nulla legato all'audiovisivo. Quindi, voilà, si è trattato di riempire un vuoto narrativo. C'est une histoire qui a été très très peu et très mal racontée. Il y a juste un livre qui est sorti il y a quelques années sur Vaillant, mais il n'y a jamais rien eu en audiovisuel. Donc voilà, donc c'était pour combler le vide. Ha parlato delle interviste che ha già fatto o che vuole fare alle persone che hanno lavorato a Vaillant. Allora mi domandavo se potesse parlarcene delle persone che hanno lavorato in redazione e dei fumetti più famosi che hanno creato. Ah oui, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Ah beh, ce ne sono stati veramente tanti. Per i più anziani il fumetto più famoso di Vaillant è stato Il Pioniere della Speranza, una serie di fantascienza iniziata sul finire del 1945. In realtà potremmo proprio dire che si trattava di Star Trek, ma con 20 anni di anticipo. Altrimenti ci sono stati innumerevoli autori comici che hanno iniziato con Vaillant e che sono diventati famosi in seguito, come ad esempio Mandrika, che è stato un genio dello humor un po' assurdo, o Marcel Gottlieb, che poi ha lavorato per il giornale Pilote e che io ho intervistato fortunatamente prima della sua morte, 1 anno e mezzo fa. Lui stesso mi ha raccontato di aver iniziato la propria carriera con Vaillant all'inizio degli anni 60. Do soltanto qualche piccolo esempio, ma potremmo parlare di tantissime altre persone, anche perché Vaillant è durato per 25 anni e Piff Gadget per altri 25. Una domanda che allora ci sembra sorgere spontanea è come Vaillant si sia trasformato in Piff Gadget. Come è avvenuto questo passaggio? Ah, questa è una storia degli anni 60 estremamente interessante, perché Vaillant era molto legato, evidentemente, al Partito Comunista Francese. E quindi si trattava di un giornale che aveva veramente avuto una certa gloria durante gli anni 50, nel momento più intenso della Guerra Fredda, durante il quale il Partito Comunista era molto potente. Fare un fumetto illustrato per i più giovani era sembrata un'idea più che logica. Ma in seguito, negli anni 60, sono successe due cose. Innanzitutto, molta concorrenza per quello che riguarda il fumetto, soprattutto dal Belgio. Spirou, Tintin, eccetera. I corrispettivi di quello che in Italia poteva essere Topolino. A quel punto Vaillant ha iniziato a perdere lettori perché questi ultimi giornaletti erano diventati più popolari. In più, in Francia il Partito Comunista cominciava a venir percepito in maniera sempre più negativa e quindi Vaillant ha perso popolarità. Ma quindi i lettori di Vaillant sapevano a che punto questo fumetto fosse legato al Partito Comunista? Sì, certo, il pubblico in generale sapeva di questo legame con il Partito Comunista e che invece un giornale come Topolino era più legato a forze avverse. E davanti a tutta questa concorrenza, Vaillant si è ritrovato costretto a doversi rinnovare, cambiando per esempio il proprio formato. La seconda cosa importante è che nel 1965 c'è stato un grande congresso dei partiti comunisti, in cui si discusse della necessità di democratizzare l'accesso alla cultura e si decise che il partito non doveva più interferire con gli aspetti artistici del mondo culturale. Quindi Vaillant ha avuto così la possibilità di essere totalmente liberato dalle influenze culturali del partito. Ma quindi potremmo dire che ci sono stati due momenti di Vaillant, perché giustamente una delle domande che volevo porle era appunto sulla libertà e l'indipendenza della redazione di Vaillant rispetto al partito. Oppure il Partito Comunista Francese dava una linea politica anche alla redazione del giornale? In questo senso possiamo trovare due momenti diversi nella storia di Vaillant? Oui, mais c'est toujours compliqué de sapere quelque chose comme ça, parce que évidemment, la direction de Vaillant a toujours été liée au Parti Comunista, même quand c'était Piff Gadget. Par contre, beh, diciamo che è una definizione estremamente imprecisa, perché in ogni caso Vaillant è sempre stato legato al partito. Per quanto riguarda invece la redazione, cioè le persone che creavano il giornale, loro erano molto diversificati, anche se potremmo dire che in generale il redattore capo, cioè quello che sceglieva la linea del giornale, aveva effettivamente la tessera del partito. Che ce l'avessero gli autori o i disegnatori non interessava troppo. Si cercava più che altro di disegnare degli eroi che fungessero un po' da modello, che seguissero degli ideali, antirazzisti, antifascisti, eccetera. Una cosa divertente è che si scrivevano molte storie western, sapendo che in realtà si tratta di un genere tipicamente americano. Ma uno degli autori principali adorava i western, aveva un'enorme collezione di western. Teniamo in considerazione il fatto che Vaillant era il solo giornale che poteva essere venduto nei paesi del blocco comunista. E questa presenza di western non era propriamente ben accettata. Les gens du Parti Comunista in Russia, Roumanie, eccetera, vraiment voyaient ça un très mauvais œil, n'appréciait pas beaucoup che il western non vaille. Ma certo, perché era un elemento che faceva parte della cultura americana. Sì, anche se esistevano dei western un po' diversi, ma diciamo che in generale sì. E allora nel 1965 quello che è successo è stato che Vaillant si è trasformato in un giornale a fumetti come gli altri, perché non c'erano quasi più articoli né sulla resistenza né sui grandi valori comunisti. Nel 1965 si chiamava Vaillant, il giornale di Pif, come altri fumetti che avevano un eroe principale, ed è stato deciso che l'eroe principale sarebbe appunto stato Pif. 5 anni più tardi si trasformò in Pif Gazette e Vaillant è totalmente scomparso, per diventare un giornale molto classico. È per questo che quando i giovani, o per meglio dire i loro genitori, compravano Pif Gazette negli anni 70, una gran parte di loro, e per esempio anche i miei, non avevano idea del rapporto col Partito Comunista, che ormai era diventato invisibile. La direzione dell'edizione era di certo ancora comunista, ma gli autori no. Parliamo quindi di un giornale a fumetti diventato ormai molto commerciale. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main. De ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. In questa seconda parte della trasmissione andiamo a indagare l'ambiente dei cartoni d'animazione di qualità. come ci si muove, che lavori sono, come la prospettiva di lavoro, quali sono i grandi luoghi di questa creatività europea. Lo facciamo con Giovanna Ferrari, attualmente di stanza in Irlanda, che è stata protagonista, assieme ad altri colleghi, di alcuni cartoons d'animazione che hanno avuto la nomination per l'Oscar, quindi persona a conoscenza ben dei fatti e che ai nostri microfoni così ha risposto. Abbiamo al telefono Giovanna Ferrari perché è protagonista con altri colleghi, 20 disegnatori, del film Song of the Sea, che nel 2015 ebbe la nomination agli Oscar per il miglior film d'animazione del regista nordirlandese Tom Moore. E con Giovanna subito allora parliamo di questa sua esperienza. Quanto è stato difficile o bello lavorare con altri 20 colleghi in quest'opera? È stato molto bello, più di 20 in realtà alla fine. Se ci metti insieme tutti gli studi e le coproduzioni vengono fuori centinaia di persone, animatori una ventina, ma persone che hanno lavorato al film sono veramente tante. Il lavoro come viene si fa a tratti di film oppure ognuno segue un aspetto delle immagini? C'è una pipeline che parte dalla regia, allo storyboard, alla layout, poi l'animazione, il compositing, il background. Ognuno ha un ruolo definito. Io copro più di un ruolo, ma normalmente le persone hanno un ruolo definito. Io faccio storyboard, che è la seconda fase, la fase più vicina alla regia, cioè disegno, diciamo, le vignette che rappresentano lo storytelling, la narrazione, un po' come una specie di piccola, un piccolo cartoon. E poi da lì viene montato un animatic e poi viene uno si guarda con le voci e poi lo si prende scena per scena e la si disegna meglio. Ogni personaggio viene disegnato e lì comincia la vera animazione, che è 24 fotogrammi al secondo di disegnini. Un lavoro insomma davvero complesso alla fine, nella sua globalità, nella sua collettività. Sì, è un lavoro molto lungo anche, molto molto lungo. Sì. Ma nel tuo lavoro di disegnatrice, al di là dell'esperienza di questo film, ti fai anche i testi o pensi alle illustrazioni? No, non sono anche sceneggiatrice, anche se in quanto storyboard artist devo lavorare molto sulla sceneggiatura, nel senso che noi abbiamo una sceneggiatura in mano che è di solito un draft, diciamo. Poi mentre la disegni, mentre fai lo storyboard, ti rendi conto che ci sono delle frasi che non funzionano, ci sono le scene che non rendono, ci sono degli interi passaggi magari di un blocco di sequenze che proprio non funzionano e le cambi in corso d'opera, quindi torni alla scrittura. Poi io magari non scrivo io direttamente la nuova versione, però diciamo che io indico con l'aiuto del regista, assieme indichiamo allo sceneggiatore cosa cambiare, per esempio. Ma quant'è la libertà di espressione tra virgolette tra il disegnatore e chi ha fatto i testi, di come lui si immaginava i personaggi o le scene? Ma in realtà sai, il discorso è che il film è il cuore pulsante del film è il regista. Non è né lo sceneggiatore né io, ma il regista. Quindi dipende veramente dal regista, se questa persona sente, se il regista sente o la regista sente che c'è un problema, c'è qualcosa che non va in una sequenza, in una scena, in una parte del film, assolutamente la cambierà, perché è veramente la regia quella che decide il corso d'opera del film. Qual è il rapporto tra cartoon, animazione e fumetti cartacei? Esiste un rapporto? Sì, esiste. Blando di per sé, nel senso che di per sé non c'è un grande rapporto, sono due linguaggi veramente diversi, perché in quello che faccio io, il cinema d'animazione, è veramente un linguaggio cinematografico, cioè io faccio dei film, che poi siano disegnati è una cosa secondaria, è il mezzo che uso, ma lo potrei fare col film, lo potrei fare con una telecamera o con i pupazzetti, è uguale, è veramente uguale, mentre invece il fumetto è proprio al suo modo espressivo proprio del cartaceo, che è completamente diverso. Quindi diciamo che in comune abbiamo veramente molte volte solo la matita, poi non è neanche una matita ma è un computer molte volte. Invece cosa c'è invece che veramente la cosa bella è che un sacco di illustratori più o meno famosi stanno avvicinando negli anni sempre di più all'animazione e quindi in quanto animatore mi sono trovato moltissime volte a lavorare con dei grandi dell'illustrazione, vedi Mattotti, Bloch, eccetera eccetera, perché per esempio adesso Mattotti sta facendo un lungometraggio basato su un libro di Buzzati e è regista, e per esempio mi ha affidato molto a persone come me per tradurre la sua idea, che è un'idea più fumettistica, verso un'idea cinematografica. Al cinema oggi vediamo moltissime produzioni per bambini, cartoni animati, e questo perché evidentemente c'è un pubblico per un cinema, altrimenti le sale cinematografiche un po' in crisi. Questo moltiplica quindi le vostre opportunità di lavoro come disegnatori? È un momento d'oro? Non è mai un momento d'oro, purtroppo. Diciamo che le grandi multinazionali americane come la Pixar e la Disney sì, hanno dei budget clamorosi, sfornano film a go-go per vendere popcorn e oggettistica varia. Poi noi abbiamo un circuito diverso, nel senso che io spesso lavoro su produzioni in Europa che cercano di fare un lavoro molto molto difficile, che è quello di convincere il pubblico che i film d'animazione sono anche per adulti e sono film, ecco. Diciamo che è una scommessa molto grossa. Per esempio adesso ho lavorato per 3 anni su un film che era agli Oscar, anche questo, sempre del stesso studio di Cartoon Saloon, diretto da Nora Chomien, che è una regista molto brava, che ha fatto questo lungometraggio tratto da un libro di Deborah Ellis sulle donne in Afghanistan, sulla situazione femminile in Afghanistan nei primi anni 2000, molto pesante, è per ragazzine, è per persone, sì, diciamo dai 10 ai 1000 anni, ecco, è però anche per adulti. E diciamo che per noi la grande scommessa è convincere il pubblico ad andare a vedere il film con i loro figli e anche da soli, perché non è cinema animazione, non è per bambini, anzi. Spesso grazie all'animazione possiamo dire cose che non potremmo dire con il cinema, diciamo, normale, perché sarebbe troppo violento o troppo sconvolgente dirlo. E quindi sarebbe corretto questo paragone, che film vostro d'animazione sta ai film di Disney come la graphic novel sta ai fumetti per bambini? In certo senso possiamo dire di sì. Secondo me sì. L'animazione non è un genere, capito? È un'animazione, è un modo di espressione. Tu con l'animazione puoi raccontare delle storie, che Kubrick può raccontarti una storia in animazione, capisci? Cioè non è, è semplicemente un modo di espressione. Quello che esprimi dipende da te. E in questo quadro com'è la scena dei giovani disegnatori oggi? E l'Italia come è messa in questo ambiente? L'Italia, poverina, è messa meglio di altre volte. Diciamo che ci sono un sacco di talenti che nascono e che per lo più però cercano soldi all'estero e scappano all'estero. Quindi anche oppure qui fuga di cervelli anche su questo campo. Oppure cervelli rinchiusi nel loro sgabuzzino a fare cose bellissime però da soli, perché è un grande peccato, ma come al solito in Italia mancano investimenti. Abbiamo delle scuole che cominciano adesso veramente a essere in gamba, però siamo lontanissimi dai nostri vicini. In Europa, c'è da dire che chi se ne frega, nel senso, siamo in Europa, siamo in un mondo in cui comunque ci si sposta tantissimo. Secondo me è un po' riduttivo rimanere nel regionalismo italiano, nel senso che in Italia abbiamo tantissime cose, ma per un italiano andare un attimo all'estero a fare un'esperienza non è una cosa drammatica, parliamone. Le coproduzioni internazionali si fanno tutti i giorni, siamo in un mondo in cui si scambiano informazioni e lavori di continuo, per cui secondo me è il minimo, è anche molto nutriente per la tua mente e per il tuo spirito di artista andartene a fare dei giri all'estero e poi magari portare il frutto del tuo sapere a casa se vuoi tornarci. Io vivo dall'estero da tantissimi anni, ma non lo sento, non l'ho mai sentito come... Non è l'estero, è un altro posto, se non è Bologna, ma per me, non so, Bari o Parigi, cioè è sempre lontano da Bologna, capito? Come dire, non, l'importante è non smettere mai di cercare, di essere curiosi, di conoscere, di muoversi. Ci sono tantissimi francesi che vanno a vivere in Irlanda, irlandesi che vanno a vivere a Londra, tutto un muoversi nell'ambito artistico. Ma c'è una polarità, una città particolarmente attraente, una volta per la pittura si andava a Parigi, no? Inizio del Novecento, era un obbligo. Esiste questo per sì, guarda, in questo momento ti direi che dove sono io, a Kilkenny, che è un paesino minuscolo vicino a Dublino, c'è un sacco di mossa. 2 anni fa avrei detto Parigi, cambia, si gira. Diciamo che ci sono dei poli più grandi di altri. Londra ovviamente è un posto dove c'è tantissimo la roba da fare, ma per esempio con Brexit, sai, cioè è molto insicuro comunque. Non c'è un posto dove dici, ah, adesso mi metto qui. La capitale, qua. Ce n'hai già parlato, ma altri programmi futuri per Giovanna? Io adesso sto finendo, abbiamo finito Breadwinner, che è questo film di Nora Tumi, che tra l'altro si è stato agli Oscar, non ha vinto come al solito, ma noi non vinceremo mai perché vince solo Pixar. però stiamo lavorando sul prossimo film di Tom Moore, che era il regista di Song of the Sea, e anche questo ormai diciamo che lo storyboard l'abbiamo quasi finito, quindi entrerà in produzione e poi non posso dire niente, però resto qua. Comunque sarò sempre qua in Irlanda per i prossimi anni, credo. Ho dei progetti interessanti, ma sì, resto qua. Io sono da quasi 4 anni fissa qui ed è la prima volta che veramente sono fissa in un posto a lavorare per più di un anno nella stessa compagnia. Con questa atmosfera rilassata di Bill Frisell ci congediamo dalla trasmissione, ma vi diamo appuntamento la prossima settimana, quando riprenderemo la chiacchierata su Vaillant, ma aggiungeremo anche il grande competitor della destra francese, Tintin, una destra che però sa raccontare e si impone all'attenzione di tutti. Quindi l'appuntamento è per la prossima trasmissione. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a sinistra, il pioniere, un mondo dentro a un balun. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?